Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Stai sprecando un'occasione per verificare se son come pensi. Vorrei far saltare con la dinamite le tue indecisioni. Non ti fidi fino in fondo e poi mi guardi uscire. Guardati dai miei silenzi, dalle mie poesie. Se consideri la peste come una rivelazione, scegli se purificarti oppure bruciarti. Potrai dividere il mio corpo in parti uguali in un istante che purifica. Non c'è nessun confine che divida e illumini la freccia e il suo bersaglio. Stai curando le ferite, snuda il tuo pugnale che ti sto aspettando. Non esiste strategia che ti permetta di colpire al buio. Non puoi sopportare che io stia guardando. Forse ti conviene cogliermi nel sonno. Potrai dividere il mio corpo in parti uguali in un Mother of mercy. Is this the end of Rico? Treno. Dopo Amiens, quando la nebbia e i grigi lo riportano alla stagione d'autunno e al freddo, si chiede perché sta fuggendo. Lui lo sa, ma sono ragioni che all'esterno appaiono esili e misteriose, mentre per lui sono totali e assolute. Va a Londra, sa, perché deve ritrovare la sua terza persona, un fantasma che deve incontrare per continuare a scrivere. Va a Londra per incontrarsi con il suo libro. Questo era l'incipit di Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli. È la seconda parte di Eclettica in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fra le 19 e le 20. Poi replicata da voi con il podcasting nel momento che preferite, con il supporto che preferite. I dettagli su myspace.com/eclettica e nel caso vogliate parlare direttamente con me, Giulio, @radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare anche per l'iscrizione alla lista nera. Lista nera che vi permette di ricevere ogni fine settimana la playlist di quanto ascoltato nei 5 giorni che si sono appena chiusi. E proprio con l'ultima spedizione della playlist io avevo preannunciato che martedì alle 19 avrei dato una notizia che poi adesso è di pubblico dominio. Sono stato il primo a poterla dare perché c'era stata comunicata ufficialmente solo un'ora prima. Sapevamo che ci sarebbe stata comunicata ufficialmente solo un'ora prima e che avremmo potuto renderla pubblica solo dopo. Quindi per uno strano caso del destino, Eclettica di martedì scorso alle 19 è stata la prima volta in cui dai microfoni di Rock FM se ne è annunciato ufficialmente la chiusura. E ovviamente dopo quel mio invito a ascoltare alle 19 molti degli iscritti alla lista nera si sono fatti vivi. Per esempio Sandra da Viareggio, che ha mandato un messaggio intitolato "Sintonizzatevi alle 19". L'ho fatto, Giulio. Alle 18.53 ero già sintonizzata. Oggi niente lavoro, a Viareggio è la festa del patrono. Mi sono scritta addirittura un memo. Sapevo che non dovevo perdermi la diretta oggi. Sapevo che avresti avuto da dire qualcosa di particolare, di nuovo, come mi hai sempre abituato. Qualcosa che mi avrebbe entusiasmato come sempre. E invece le tue parole mi hanno strappato di dosso qualcosa di profondamente mio. È come se mi fossi trovata senza una parte di me, senza orecchie e senza udito. Per la prima volta ho intuito il disorientamento e lo sconforto della mancanza del mio Daimon. L'ho sentito. Ma so, perché l'hai detto, che ci sarà un altro modo per poter continuare a condividere Eclettica. In caso contrario diventerò la tua ossessione ogni giorno. Sempre presente, più o meno in ritardo, Sandra. E lasciando per un momento le vostre parole, che ovviamente costelleranno da qua fino alla fine ogni puntata di Eclettica, vi ricordo che vi siete già ascoltati Paolo Benvenu con La Peste, Gringo Starr con All You All e poi la voce di Jones e dei Sigur Rós, che dà una mano all'artista islandese che esordisce con il suo album, artista di nome Bix. Universal è il titolo della canzone. A proposito di Sigur Rós, 3 date quest'estate sono state annunciate proprio nei giorni scorsi: Milano, Firenze e Roma. Ed ora una novità che proviene da New York City, come ne provengono molte da quella città. Loro si chiamano Bridges and Powerline ed esordiscono con un album dal titolo Ghost Type, che si apre con la traccia Uncalibrated. Love to you.

Eclettica, ultima stagione, settimana numero 22, volume numero 1, indice, Sun Lux, Correcto, So, Ungdomsskolen, Il Genio, Stricken City, Paolo Benvenu, Gringo Starr, Bix assieme a Jonesy dei Sigur Rós, Bridges and Power Lines, Peter Moran, Radio 4. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.